Un bel sollievo, dovunque si sia, non tenersi l'aria in corpo. Chissà se quella bracciola di maiale che ho preso col tè dopo era proprio fresca, con questo caldo. Non ho sentito nessun odore. Sono sicura che quell'uomo curioso dal norcino è un gran furfante. Spero che quel lume non fumi. Mi riempirebbe il naso di sudiciume. Meglio che rischiare che mi lasci aperto il gas tutta la notte. Non potevo riposare tranquilla nel mio letto a Gibilterra. Mi alzavo anche per vedere. Ma perché diavolo mi preoccupo tanto di questo? Per quanto la cosa mi piace, d'inverno fa più compagnia. Oh, signore, poi era un freddo boia quell'inverno che avevo 10 anni o giù di lì. Sì, avevo quella gran bambola con quei vestiti buffi addosso, sempre a vestirla e svestirla. Quel vento gelido che veniva di scivolo giù dalle montagne. La, come si dice, Nevada, Sierra Nevada, in piedi davanti al fuoco, con quello straccetto di camicia corta tirato su per scaldarmi. Mi piaceva ballonzolare vestita in quel modo e poi tornare di corsa a letto. Sono sicura che quel tale di faccia stava là tutto il tempo a guardare con le luci spente d'estate e io, nuda come Dio m'ha fatta, saltellavo per la stanza. Ero innamorata di me a quel tempo. Poi spogliata davanti alla toilette mi truccavo e mi davo la crema. Solo che quando si arrivava alla cerimonia del vaso spegnevo la luce anch'io, così si era in due. Addio al sonno per stanotte. Però speriamo che non si metta a imbrancarsi con quegli studenti di medicina che lo traviano. Mettersi in testa ad essere tornato giovane. Tornare alle 4 di mattina dovevano essere, se non di più. Però ho avuto la delicatezza di non svegliarmi. Ma che hanno da chiacchierare tutta notte? Buttar via soldi, ubriacarsi come bestie. Ma perché non bevono acqua? E poi attacca a ordinare uova, e tè, e merluzzo affumicato, e crostini caldi imburrati. Mi dà l'idea che lo vedremo troneggiare come il padrone del vapore, a pompare su e giù dentro l'uovo col manico del cucchiaino. Ma da chi l'ha imparato? E ci godo quando inciampa per le scale la mattina con le tazze che schiccherano sul vassoio e poi a giocare con la gatta ti si strofina addosso per suo piacere. Chissà se ha le pulci. È peggio di una donna, sempre a leccare, a leccare. Ma non posso soffrire le grinfie. Chissà se vedono cose che non vediamo noi a guardar fisso in quel modo. Quando se ne sta per un certo tempo in cima alle scale e ad ascoltare. Io aspetto, aspetto. Che ladra poi, quella bella sogliola fresca che avevo comprato. Forse prenderò un po' di pesce domani. Anzi, oggi è venerdì, vero? Sì. E poi un po' di crema con marmellata di Ribes, come bei tempi. Non quei vasetti 2 libbre misti di prugna e mele di Williams e Wood, Londra, Newcastle. Dura 2 volte di più solo per via delle lische. Non posso soffrire le anguille. Il merluzzo, sì. Prenderò un bel pezzo di merluzzo. Ne prendo sempre per 3. Mi scordo. Comunque ne ho abbastanza di quell'eterna carne di bacli, cotolette di filetto e zampa di bove, lombo e collo di castrato e frattaglie di vitello. Basta il nome. Ho un picnic, per esempio. Sediamo tutti 5 scellini a testa. O farlo pagare e invitare qualche altra donna per lui. Chi? Mrs. Fleming? E andare in carrozza. Alla valletta boscosa o ai campi di fragole. Ti si metterebbe a esaminare tutte le unghie dei piedi dei cavalli, prima, come fa con le lettere. No, non con Boylan là. Sì, con un po' di panini al prosciutto e vitello freddo misti. Ci sono delle casette laggiù a valle del fiume, apposta per questo. Ma ci fa un caldo d'inferno, dice lui. Non un giorno di festa, però. Non posso soffrire quelle caterve di Marianne con la giornata di libertà. E poi il giorno di Pentecoste è un giorno maledetto. Non mi meraviglio che quell'ape l'abbia punto. Meglio il mare. Ma per tutto l'oro del mondo non tornerei in barca con lui dopo che Abrei si mise a dire al barcaiolo che lui sapeva remare. Se gli chiedessero lei se la sentirebbe di correre lo steeplechase per la Coppa d'Oro, direbbe di sì. Poi il tempo cominciò a guastarsi e quella ciabatta di barca sbandava tutto da una parte e il peso tutto dove ero io. Mi diceva di tirare le guide a destra, poi a sinistra e l'acqua che ci veniva a fiotti attraverso il fondo e il remo gli scivola via dallo scalmo. Miracolo che non siamo andati tutti ai pesci. Lui nuota, si capisce? Ma io no, non c'è nessun pericolo, sta calma. Con quei pantaloni di flanella gliel'avrei voluti strappar di dosso a brandelli davanti a tutti. E dargli, come la chiama quello, una flagellazione, fino a farlo diventare nero e blu. Gli avrebbe fatto un gran bene. Solo che c'era quel tale, con quel nasone, non so chi sia, con quella bellona, Burke del City Arms Hotel, che spiava come il solito sull'imbarcadero, sempre dove non ce n'era bisogno, quando c'era qualche baruffa, faccia da far vomitare. Non si può dire che ci amassimo molto, è una consolazione. Chissà che roba è quel libro che mi ha portato. Dolcezze del peccato, di un uomo di mondo. Un altro Mr. The Cock. Suppongo gli è andato quel nomignolo perché andava in giro col suo coccolitto da una donna all'altra. Non mi potei neanche cambiare le scarpe bianche, nuove, tutte rovinate con l'acqua di mare. Il cappello che avevo con quella penna, tutto sbertucciato. Che seccatura. E poi irritata perché l'odore dell'acqua di mare mi eccitava, proprio come le sardine e le scardole della baia dei Catalani, di là della roccia. Erano belle, tutte argento nei panieri dei pescatori. Il vecchio Luigi, vicino ai 100, dicevano che veniva da Genova. E quell'altro vecchio, alto, con gli orecchini. Non mi piace uno che per arrivarci ci vogliono le scale. Io dico che sono tutti morti e ridotti in polvere da un pezzo. E poi non mi piace rimanere sola di notte in questo casermone, ma credo mi ci dovrò rassegnare. Mi sono perfino dimenticata di portare un pizzico di sale nella confusione del trasloco. Voleva mettere un'accademia musicale nel soggiorno al primo piano con una targa d'ottone, oppure pensione di famiglia Blum, suggeriva, e andare a rovinarsi del tutto, come fece suo padre laggiù a Ennis, come tutte quelle cose che diceva a papà che avrebbe fatto e a me, ma io gli leggevo dentro. Mi parlava di tutti i bei posti dove si poteva andare per la luna di miele, Venezia al chiaro di luna con le gondole e il lago di Como. Ci aveva la figura ritagliata da qualche giornale e mandolini e lanterne. Oh, che bellezza, dicevo io. Tutto quel che mi piaceva lui lo voleva far subito, se non anche prima. Se vuoi essere il mio uomo, devi portarmi. Questo tomo gli dovrebbero dare una medaglia di cuoio con il bordo di mastice per tutto quello che è almanacca e poi ti pianta qui tutto il santo giorno. Non si sa mai. Sei un vecchio mendicante alla porta. Per un tozzo di pane, con la solita storia pietosa. Potrebbe essere un malintenzionato e mettere il piede attraverso la porta per impedirmi di chiudere. Come la figura di quel criminale incallito, come c'era scritto sotto in Lloyd's Weekly News. 20 anni in prigione. Poi esce fuori e ammazza una vecchia per denaro. Figurarsi la sua povera moglie, o la madre, o chiunque altri. Aveva un viso da scappare le mille miglia. Non mi riusciva di chiudere occhio finché non inchiavardai tutte le porte e le finestre per star tranquilla. Ma è anche peggio sentirsi rinchiusi come in prigione o in manicomio. Dovrebbero fucilarli tutti. O il gatto a 9 code. Un bestione come quello assalire una povera vecchia, poi assassinarla nel letto. Io glieli taglierei davvero. Non servirebbero più a molto dopo. Ma meglio che nulla. Quella sera, che ero sicura d'aver sentito dei ladri in cucina e lui scese in camicia con una candela e un attizzatoio, come per dar la caccia a un topo, bianco come un lenzuolo, una paura cane. Faceva più rumore possibile per farsi sentire dal ladro. Non c'è mica molto da rubare, lo sai Dio, però è l'idea, specie ora che Millie è andata via. Che idea, mandare la ragazza laggiù a imparare a far fotografie, tutto perché il nonno. Invece che mandarla all'Accademia Scherri, dove avrebbe imparato davvero, non come me che sono stata sola a una scuola da un uccellino, ma lui ha dovuto farlo lo stesso, per via di me e di Boylan. Ecco perché l'ha fatto, sono sicura. Che mania di far progetti per ogni cosa. Non mi potevo più rigirar per casa con lei, sempre fra i piedi, questi ultimi tempi. Bisognava che cominciassi con lo sprangar la porta. Mi faceva venire i nervi. Veniva dentro senza bussare quando avevo messo la seggiola contro la porta per lavarmi in quel posto col guanto. Esasperante. A far la principessina tutto il giorno, metterla sotto la campana di vetro e due alla volta a guardarla. Se sapesse che l'ha rotta lei la mano di quella statuetta da 4 soldi con quelle sue maniere rozze e sbadate prima d'andar via, quella che ho fatto rimettere a posto da quel ragazzino italiano in modo che non ci si accorgesse della giuntura per 2 scellini. Non voleva neanche versare l'acqua delle patate, però ha ragione, per non sciuparsi le mani. Mi sono accorta che parlava sempre con lei a tavola questi ultimi tempi, a spiegarle quel che c'era nel giornale. E lei faceva finta di capire che furbacchiona, ha preso da lui. E l'aiutava a infilarsi il cappottino. Ma se c'era qualcosa che non andava, lo diceva a me, mica a lui. Non può dire che dico bugie. Questo poi no. Sono troppo onesta. Niente da dire. Credo che lui pensi che sono belle finite da riporre nel cassetto. Beh, no e poi no, niente di simile. La vedremo, la vedremo. Ora si è buttata a civettare anche coi 2 figli di Tom Devan e mi scimmiottava fischiettando con quelle cavallone delle Marre che la chiamano. Può uscire, Millie, per favore? Tutti la cercano per questo e per quello, in giro per Nelson Street sulla bicicletta di Harry Devan di sera. Tanto vale che l'abbiamo andata là. Ci stava già prendendo la mano. Voleva andare a pattinare e fumava le loro sigarette, mandando fuori il fumo dal naso. Glielo sentii sul vestito quando staccai con un morso il filo del bottone che le avevo ricucito in fondo alla giacchetta. Non ce la faceva nascondermi nulla, ve lo dico io. Non glielo avrei dovuto ricucire. E addosso a lei, poi, vuol dire una separazione. E l'ultimo plum pudding, spaccato in 2 metà. Vedi se non è vero. Lascia dire la gente. Ha la lingua un po' troppo lunga per il mio gusto. La tua blusa è troppo scollata, mi dice. Cencio dice male di straccio. E mi toccò dirle di non mettere le gambe accavallate in mostra a quel modo sul davanzale, sotto il naso di tutti quelli che passavano. La guardano tutti, come me quando avevo la sua età. Qualsiasi straccio ti sta bene addosso, si capisce. E poi è anche un gran non mi toccare che son di vetro. A suo modo, quella volta al sacrificio supremo al Theatre Royal. Leva il piede di lì, non posso sopportare d'essere toccata. Paura birbona che le ciancicassi la gonnella pieghettata. È tutto un gran ciancichio nei teatri al buio, con tutta quella gente. Tentano sempre di strofinarsi addosso. Quel tale della platea del Gaiety per Beer Won't Gin Trilby. L'ultima volta che ci vado a farmi spiaccicare in quel modo, per tutti i trilbi di questo mondo che vadano a farsi friggere. Ogni 2 minuti mi toccava in quel posto e guardava da un'altra parte. È un po' pazzerello. Mi pare di averlo visto dopo. Cercavo di accostare 2 signore piuttosto sciccose davanti alla vetrina di Switzer, sempre per il solito traffico. L'ho riconosciuto all'istante, viso e tutto, ma lui non si è ricordato di me. E lei non volle neanche che la baciassi a Bradson quando andava via. Beh, spero che trovi qualche cavaliere che la serva di barba e di parrucca come feci io quando era a letto con gli orecchioni e le ghiandole tutte gonfie. Dov'è questo? Dov'è quell'altro? Però non è ancora capace di un sentimento profondo. Non ho mai goduto completamente prima di aver 22 anni circa. Finiva sempre in quell'altro posto. Le solite sciocchezze, risolini di ragazzina. Quel Connie Connolly che le scriveva con inchiostro bianco su carta nera sigillata con la cera lacca, però ha applaudito quando è calata la tela perché lui era tanto attraente. Poi Martin Harvey venne da noi a colazione, desinare e cena. Dopo pensavo tra me, deve essere vero amore se un uomo le sacrifica la vita in quel modo per niente. Io dico che ce ne sono rimasti pochi, uomini così. È difficile crederlo, però, a meno che non succedesse a me. La gran parte non ha un briciolo d'amore nel temperamento. Trovar 2 persone oggi così attaccate l'una all'altra, che sentano proprio tutto come te. Di solito gli manca qualche venerdì. Il padre doveva essere un po' tocco per andare a avvelenarsi, dopo che lei, però, poveretto, doveva sentirsi solo. E sempre a fare all'amore con la mia roba, quei 4 stracci. Si voleva tirar sui capelli a 15 anni e la mia cipria non farebbe che rovinarsi la pelle, basta. C'è ancora tutta la vita davanti per farlo. Si capisce che è irrequieta, sa d'essere carina, con quelle labbra rosse. Peccato che non rimangano. Ero anch'io così. Ma non si deve essere troppo dolci con quella lì, che mi rispose come una pescivendola quando le dissi di andare a prendere mezza libra di patate. Quel giorno che incontrammo Mrs. Joe Galler alle corse al trotto e lei fece finta di non vederci su quel carrozzino con Friar il procuratore. Eravamo troppo in basso per lei. Finché gli ho dato due bei manrovesci sull'orecchio. Prenditi questo e impara a rispondere in quel modo e quest'altro per la tua insolenza. Mi fece proprio esasperare, a forza di contraddire. Io poi ero di cattivo umore perché, com'era, che c'era qualcosa nel tè, o non avevo dormito la notte prima, mangiato formaggio, forse quello. E le avevo detto e ripetuto di non lasciare i coltelli in croce in quel modo, perché non ha nessuno che la comandi. Lo diceva anche lei. Beh, se non ci pensa lui a correggerla, quant'è vero, Dio ci penso io. Fu l'ultima volta che si mise a frignare. Anch'io ero in quel modo. A me nessuno mi comandava. Ma è colpa sua, naturalmente. Farci sfacchinare tutte e due, invece di lasciarmi tanto tempo senza donna. Quando è che riavrò ancora una vera donna di servizio? Naturalmente vedrebbe che le va dietro. Bisognerebbe avvertirla, se no si vendicherebbe. Che peste queste donne, quella vecchia Mrs. Fleming. C'era da starle sempre alle calcagna, metterle la roba in mano, sternutiva e scorreggiava nelle pentole. È vecchia, disgraziata, non ci può far nulla. Meno male che ha ritrovato quel cencio mezzo marcito, puzzolente, rimasto dietro la credenza. Sapevo che c'era qualcosa e aprii la finestra del seminterrato per far uscire il cattivo odore. Si porta a casa gli amici per fargli trattamento. E quella notte che torno a casa con un cane. Poteva anche essere arrabbiato, caro mio. Specie il figlio di Simon Dedalus. Il padre è un gran criticone, con quell'occhialetto e la tuba alla partita di cricket e quel popò di buco in una calza. Una cosa ride dell'altra. E il figlio che ha preso tutti quei premi batte la pesca per che cosa? Alle medie. Figurati, arrampicarsi sulla ringhiera. Se l'avesse visto qualcuno che ci conosce, cosa avrà pensato? Gran cosa che non si è fatto un bel buco in quei pantaloni buoni del funerale. Come se quello che ci ha dato la natura non bastasse. Farlo entrare di contrabbando nella cucina sporca. Mi domando se ha la testa a posto. Peccato, non era il giorno del bucato. Ci sarebbe stato anche quel mio vecchio paio di mutande in bella mostra. Cosa gliene sarebbe importato? Col segno della bruciatura del ferro da stiro di quella vecchia rimbecillita. Avrebbe potuto credere che fosse qualcos'altro. Non ha mai neppur fatto sciogliere il grasso, come le avevo detto. E ora si ritrova così, per via del marito paralizzato, che sta sempre peggio. Hanno sempre qualche cosa. Malattie, o devono farsi un'operazione, o se non è quello, è il bere. E lui la picchia. Mi toccherà andare di nuovo in cerca di qualcun'altra. Ogni giorno che Dio manda in terra, me ne capita sempre una di nuova. Dolce signore, dolce signore. Beh, quando sarò stesa nella bara, allora spero che avrò un po' di pace. Ah, bisogna alzarmi un minuto. Se fosse... Aspetta, Gesù, aspetta, ci siamo di nuovo, non ci manca altro. Per forza, con tutto quel razzolare, sgromare, sgrufolare dentro di me. Ora cosa devo fare? Venerdì, sabato, domenica. La roba da sputar sangue. A meno che non ci trovi gusto. Qualcuno ce ne trova. Dio lo sa che c'è sempre qualcosa che non va in noi. 5 giorni ogni 3 o 4 settimane, la solita svendita mensile. Roba da dar di stomaco. Quella notte che mi successe in quel modo, l'unica volta che Michael Gunn gli aveva dato il palco per vedere Mrs. Kendall e suo marito al Gaiety. Aveva fatto qualcosa per lui, per un'assicurazione, da Jimmy, ero da legare, ma non volevo lasciarmi andare. Per via di quell'elegantone che mi sbirciava da sopra col binocolo. E lui dall'altra parte a parlare di Spinoza e l'anima sua che è morto, mi dà l'idea già da migliaia di anni. Sorridevo come potevo, in un bagno vero e proprio, chinandomi in avanti come se mi interessasse, obbligata a rimaner lì fino all'ultima battuta. Non mi scorderò mai di quella moglie di Scarli con le furie addosso. Dicevano che era un lavoro scollacciato, che trattava di un adulterio. Quell'idiota in galleria che fischiava l'adultera, lui a strillare. Mi dà l'idea che Dupe è andata a prendersi una donna nel primo vicoletto, facendo tutto di corsa, per compensazione. Avrei voluto che si sentisse come me. Allora sì, avrebbe urlato. Una gatta se la passa meglio di noi. Forse è che abbiamo troppo sangue dentro. Oppure, oh santa pazienza, mi scola giù come un fiume. Comunque incinta non mi ci ha messo. Grosso com'è. Non voglio rovinare le lenzuola pulite. È colpa anche della biancheria pulita che mi ero messa. Porco d'un mondo. E vogliono sempre vedere la macchia sul letto, per essere sicuri che ti è riservata vergine per loro. Quante storie per così poco. Sono così sciocchi dopo tutto, che potresti benissimo essere vedovo, divorziata 40 volte. Basterebbe una macchia di inchiostro rosso, di sugo, di more. No, è troppo violaceo. Oh Gesù bambino, cavarsi fuori da questo pantano. Dolcezza del peccato. Chi l'ha inventata questa storia per le donne, tra i vestiti, i bambini e la cucina? E questo maledetto letto scassato che fa un rumore d'inferno. Io dico che ci sentivano dall'altra parte del parco finché non gli suggerì di mettere il copripiedi sul pavimento e io col guanciale sotto il sedere. Chissà se di giorno è più carino. Penso di sì. Pianino, bisognerà mi decida a tagliarmi tutti sti peli. Tengono troppo caldo. Potrei sembrare una ragazzina, ci resterebbe di stucco la prima volta che mi alzo le sottane. Vorrei vedere che faccia fa. Dove è andato il vaso? Piano. Ho un sacro terrore che mi si rompa sotto. Dopo che quella vecchia seggetta, chissà se gli pesavo troppo a sedere sulle ginocchia. L'ho fatto sedere sulla poltrona apposta quando mi levai per prima cosa la blusa e la sottana nell'altra stanza. Ma era così occupato là dove non avrebbe dovuto essere che non si è neppure accorto del mio peso. Spero che il mio fiato fosse dolce con quelle pastiglie. Pianino. Dio. Mi ricordo di quando la cacciavo fuori per direttissima, fischiando come un uomo quasi. Pianino. Oh, Dio mio, che rumore. Spero che faccia le bolle. Allora vuol dire quattrini in arrivo. Bisogna profumarla la mattina, non scordarsene. Scommetto che un par di cosce così non l'ha mai viste. Guarda come son bianche. Il punto più liscio è proprio qui, in questo angolino. Liscio come una pesca. Pianino. Dio, non mi dispiacerebbe d'essere un uomo e cavalcare una bella donna. Oh, Dio santo, che baccano stai facendo, come il giglio di Jersey. Pianino. Oh, come scendono le acque là ora.